al Vittore, io l'andrò a trovare domani, e, vabbè, ha un fine pena, una pena da scontare di 7 anni e 6 mesi, ed è in una situazione come si può trovare da una persona che dopo 11 anni si vede piombare sul capo questa vicenda qua, ecco, insomma, in poche parole. È stato un momento abbastanza doloroso, ma abbastanza anche per me, che l'ho vissuta da 11 anni, e ritengo la sentenza profondamente giusta. Senti Mirko, come si è sviluppata la solidarietà nei confronti suoi, ma insomma anche nei confronti delle altre e degli altri che hanno visto conclusa la loro vicenda meno giudiziaria venerdì scorso in quel di Milano, e in che modo si pensa di poter proseguire questa solidarietà nei tempi a venire? Beh, a Milano c'è stata una serata alla quale ho partecipato anch'io, nella piazza di Milano, dove è stato proiettato il film sulla Diaz proprio venerdì sera, dove c'erano 300-400 persone, e poi so che molti hanno chiesto di scriverla, insomma, credo che gli vogliono inviare solidarietà. Io penso che finché una persona sia dentro per questo fatto non si possa ritenere concluso il G8. Penso che ci sono problemi di natura pratica, che sono, tanto per capirci, le ingenti spese processuali che prima o poi verranno richieste ai condannati, che poi sono le 100 persone che al momento sono diventate definitive. C'è un problema, come dire, di naturale di sopravvivenza economica di una persona in carcere senza poter lavorare. C'è un problema poi complessivamente di far sentire una vicinanza che, se devo essere franco, senza voler colpare nessuno, negli ultimi anni un po' è cominciato a mancare, ecco, forse prima degli ultimi anni, ecco, che ci siano due persone dentro con pene superiori ai 7, 8, 9 anni per quello che è avvenuto a Genova, è chiaro che sono due capri espiatori, e questo è ovvio che non può andare bene. No, questo insomma assolutamente abbiamo avuto modo di discuterne ampiamente nei giorni scorsi, come potrai ben immaginare. Ma come dire, partendo da questo dato di fatto, insomma, che è un dato di fatto esplicito ed evidente ormai a tutte e tutti, in che maniera si potrebbe ricominciare una campagna nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche considerando il fatto che comunque la vicenda giudiziaria si è quasi del tutto conclusa? Beh, qui io sono un avvocato, non è che sono... Certo, no, ma insomma... Però mi sembra evidente che qui abbiamo due temi. Uno è mettere in discussione questo reato della devastazione e saccheggio, che sempre più spesso negli ultimi anni viene utilizzato nelle manifestazioni, che ha un minimo di pena di 8 anni assolutamente esorbitanti, che poi crea queste situazioni che tipo quelle di Marina. E quindi una rivalutazione per chiedere con forza l'abrogazione di tale reato mi sembra che politicamente sia dovuto e sarebbe anche utile per la loro posizione. Poi complessivamente, ma questo è un altro tema un po' più meno centrato, c'è il tema sull'amnistia, portanti dai radicali, che mi vede assolutamente d'accordo, comporta altre dinamiche, altre riflessioni che però, come dire, coinvolgerebbero anche dal punto di vista pratico la sorte degli imputati, seppur parzialmente. E poi c'è da, secondo me, mettere in moto quelle forme di solidarietà che, ripeto, perché può sembrare poco, ma alla fine, non so, quando poi si potrà rifare una vita, trovarsi magari con 500.000 euro da pagare, 300.000 euro, non so quanto sarà di spese processuali, sono un grosso handicap, no? Per la vita di una persona. E ripeto, il fatto che se ne debba fare carico solo 5 persone che sono i capi espiatori, complessivamente mi sembra non giusto, ecco. Assolutamente. Senti Mirko, in punta di diritto, anche se ovviamente il discorso sarebbe enormemente lungo, il fatto che il reato che è stato la fattispecie di reato che è stata utilizzata è un reato che prende le mosse dal periodo fascista, e questo in qualche modo è stato anche confermato dallo stesso procuratore generale che ha detto sì, il reato è quello, ma noi lo abbiamo riorganizzato in forma democratica. Ecco, potrebbe in qualche modo far supporre un possibile futuro intervento da parte delle istituzioni giudiziarie europee, oppure si tratta di una cosa a cui non dobbiamo nemmeno pensare perché è realizzabile? Ma non saprei da questo punto di vista. Certo è un reato particolare, perché in realtà non è che quelle condotte non sono punibili, no? Le condotte della depressione e saccheggio sono i danneggiamenti, sono punite dal nostro ordinamento, e le condotte del saccheggio sono la sottrazione e furto di beni. Se voi riflettete che durante il 77, che si ricorda cosa avvenne durante l'80, insomma quegli anni lì, mai venne contestato questo capo di imputazione, e tutti noi penso siamo concordi rispetto al dire che successe ben di peggio. A marzo 77 a Bologna, vuol dire, se, facendo un paragone, molto peggio. È chiaro che ultimamente c'è un utilizzo tra virgolette politico di questa norma, che è una norma che ha un deterrente pazzesco, perché un minimo di pena di 8 anni che poi porta a quello che sta avvenendo. Io credo che qua, almeno qui in Italia, dobbiamo cercare di ragionare rispetto alla modifica o all'abolizione di un reato che viene utilizzato per finalità che non sono propriamente quelle giuridiche. Ho capito. Senti Mirko, l'ultima cosa, per tornare appunto alla vicenda di Marina, il punto fondamentale, ci dicevi tu a questo punto, per quanto riguarda appunto le incombenze immediate, è quello di creare una sorta di sono i fondi, ecco, sono le risorse per... Secondo me sì, ma credo che l'operazione 10% abbia questa finalità anche, certo, praticamente, o deve avere questo sviluppo. È chiaro che nel momento in cui la sentenza diventa definitiva, dal punto di vista giudiziario politico, puoi fare ben poco, puoi cercare di far sì che la carcerazione sia, se mai possibile, tra virgolette, la più lieve possibile. Ecco, non bisogna aggiungere ulteriori pensieri a quello del fatto di essere carcerato, che già è un pensiero non da poco. Sì, no, ti facevo questa domanda perché ovviamente potrei immaginare, noi siamo tempestati da telefonate da giorni in cui appunto ascoltatori e ascoltatrici ci chiedono sì, ma praticamente che cosa si può fare? Ecco, diciamo questo. Io non è. Bella domanda, dici, però ecco. Sì, cioè io credo che il tema dentro delle spese processuali sia un tema nazionale, no? Mm-hmm. Penso che è un tema che coinvolge tutto il movimento. Il senso del mantenimento, io penso che qualcuno prima o poi penserà di fare una roba un po' organica, se mai si riuscisse sarebbe positivo, direi. Va benissimo. Okay. Mirko, ti ringraziamo moltissimo. Un abbraccio da parte nostra a te e ovviamente a Marina, e a risentirci al più presto. Allora, grazie mille. Ciao. Altro Dio all'infuori di me, spesso